Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Viaggiare in treno è un vero e proprio calvario per i pendolari italiani. I vari dirigenti delle ferrovie che si sono succeduti negli ultimi decenni hanno chiesto più volte scusa ai passeggeri, promettendo di porre rimedio ai disagi. Ma con il passare degli anni il servizio continua a peggiorare. Mi fa male al cuore offrire un servizio non adeguato ai pendolari, ha confessato l'attuale presidente delle ferrovie Innocenzo Cipolletta. Certamente non il primo a cospargersi il capo di cenere per i disagi inflitti a chi tutte le mattine prende il treno per andare al lavoro. Sappiamo che abbiamo un debito con loro, aveva ammesso 4 anni fa il suo predecessore Elio Catania. Ma già nel 1997 Giancarlo Cimoli chiedeva pubblicamente scusa ai passeggeri, promettendo almeno l'aria condizionata in tutti i vagoni dei pendolari, anche se poi l'aria condizionata in tutti i vagoni non è mai arrivata. E i politici? Perfino inutile elencare le promesse, tante sono state. Ma viaggiare su treni confortevoli, senza sovraffollamento e con il rispetto degli orari, per usare le parole dell'ex ministro Alessandro Bianchi, è sempre stata un'illusione. Nel 1993 l'allora titolare del Dicastero dei Trasporti, Raffaele Costa, almeno ci mise la faccia. Salì su un treno di pendolari a Santià e ne scese a Novara con i cappelli dritti. Su questo problema dovremo intervenire. Ma non ebbe l'occasione. 12 anni dopo ci provò anche il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni. Appena messo il piede nel vagone alla stazione di Legnano, fu accolto da una salva di commenti ironici. «Oggi c'è Formigoni e il treno ha soltanto 5 minuti di ritardo!» Ma neanche le iniziative più temerarie hanno smosso le acque. I pendolari bloccavano i binari per protesta a metà degli anni 70 e i loro figli oggi fanno lo stesso, soltanto più organizzati. Ora hanno un coordinamento che, con la Federconsumatori, ha sfornato una specie di libro nero sulle magagne ferroviarie, a cominciare dai ritardi. Ogni viaggiatore abituale ne accumulerebbe mediamente 100 ore l'anno e se nel 1980 si andava da Torino a Milano in 1 ora e mezzo, il coordinamento dice che oggi ci vuole almeno un quarto d'ora in più. Va detto che non si può caricare la croce tutta sulle spalle delle FS e delle aziende di trasporto. L'Italia sconta ritardi storici della politica, accumulati per totale assenza di strategia. Intendiamoci, non che in questi ultimi 2 decenni i governi di turno abbiano lesinato i quattrini. Il fatto è che tutte le energie sono state assorbite dal progetto, anche mediaticamente molto redditizio, dell'alta velocità. Con il risultato che oggi l'Italia, finalmente, ha un treno in grado di fare concorrenza all'aereo fra Milano e Roma, ma continua ad avere le regioni del nord intrappolate tutti i giorni nella morsa del traffico automobilistico, anche perché i collegamenti ferroviari sono quello che sono: inefficienti, disagevoli e anelastici, con carrozze a turno deserte o strapiene, senza che si sia trovato il modo di far viaggiare treni più lunghi o più corti quando serve. E non parliamo di una zona depressa, ma dell'area più ricca e sviluppata d'Europa. Viene quasi l'idea che i nostri politici non abbiano mai preso un treno, oppure non siano mai stati in Francia o Germania. Ma è netta anche la sensazione che la cultura ferroviaria non abbia ancora accettato del tutto il principio che i binari servono per trasportare persone o merci e non per far comunque circolare i treni. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Sergio Rizzo, Viaggiatori di Serie B, dal Corriere della Sera del 16 giugno. I pendolari che ogni giorno per raggiungere Milano sono costretti a viaggiare sui treni fatiscenti di Trenitalia e Ferrovie Nord sono da tempo rassegnati all'idea di arrivare sempre in ritardo. E ad ogni miglioramento nelle linee a lunga percorrenza corrisponde un peggioramento nelle tratte regionali. In questa stazione non si vendono biglietti. Non c'è un addetto alle ferrovie, né una macchina self-service. Avendolo comprato prima, il biglietto comunque non si può timbrare. L'obliteratrice è fuori uso. Per ripararsi dal sole, c'è una sala d'aspetto imbrattata di scritte con una pozza di orina rappresa in un angolo. Bagni ce ne sarebbero. Due. Ma le porte sono sbarrate. Dalla fessura si intravedono due turche incrostate e coperte di immondizia. San Zenone all'Ambro, 25 chilometri a sud della Milano dell'Expo, è la più desolata tra le 409 stazioni della Lombardia. È anche un tempio dedicato alla vita amara dei pendolari. Un esercito di 500.000 viaggiatori che si sposta ogni giorno nella regione. Quelli dei vagoni sporchi, dei ritardi, delle soppressioni. Il 4 giugno scorso a San Zenone il treno delle 7.49 arriva un po' in ritardo. E un giovane pendolare sorride. Questo non è niente. Saliamo e vi dimostro perché i pendolari sono cittadini di serie B, anzi di serie Z. Non ci credete? Basta guardare fuori dal finestrino. In viaggio verso Milano, percorrendo la rete più affollata d'Italia. La Lombardia è attraversata da 1920 chilometri di binari, oltre un decimo dell'intero paese, e assorbe il 17% del traffico ferroviario nazionale. 1800 treni al giorno fra Trenitalia e Ferrovie Nord. Un sistema doppio rispetto alla Svizzera. Organizzato a raggi con la maggior parte delle 36 direttrici che confluisce su Milano. Sono i numeri di un sistema che lì, intorno alla metropoli epicentro, sta esplodendo. Ogni mattina i pendolari che raggiungono il capoluogo in treno sono 200.000 e lo fanno tutti tra le 7 e le 9. Come trasferire in due ore l'intera popolazione di Brescia. Per questo la densità di traffico su Milano è quadrupla rispetto alla media italiana. Esempio. Sulla linea da Bergamo i treni viaggiano spesso carichi fino a due volte e mezzo la capienza. Conseguenza, viaggi infernali e rischi per la sicurezza. Ecco cosa sono le ferrovie lombarde. Un gigante con l'acqua alla gola. Un sistema talmente saturo da vivere il punto di rottura come condizione quotidiana. E la rottura, puntuale, arriva. L'ultima venerdì scorso. Ho totalizzato 3 ore e 20 minuti per fare i soliti 70 chilometri che di solito copro in 1 ora e 20, racconta Emilio Bianchi. Tutti i treni S5, S6 e regionali per Novara, Varese e Domodossola erano in ritardo o cancellati. La cosa peggiore, nessuna informazione. In mezzo al caos si distingue però una linea netta, quella che divide una minoranza di privilegiati, Freccia Rossa ed Eurostar, e una maggioranza, 90%, di pendolari abbandonati e arrabbiati. L'alta velocità attrae gli investimenti, attaccano i comitati, mentre il trasporto regionale è al tracollo. È per capire la differenza tra le due caste che bisogna affacciarsi dal treno partito da San Zenone all'Ambro. La vede quella? Sorride il pendolare guida. È la TAV. Per noi, la peggiore delle beffe. La nuova linea dell'alta velocità si snoda a pochi metri dai vecchi binari. Il confronto è lì, da vedere, spietato. Il Freccia Rossa, che parte da Bologna alle 8.24, arriva a Milano alle 9.29. Per percorrere 210 chilometri impiega 1 ora e 5 minuti. Accanto arranca invece il regionale che da San Zenone, dove passa alle 7.59, approda nel capoluogo alle 8.55. Fa un decimo della strada, 25 chilometri. Ma ci mette un minuto in più, 1 ora e 6 minuti. Per anni, attacca Ettore Fittavolini, storico rappresentante dei pendolari Piacenza-Milano, ci hanno promesso che con l'alta velocità la nostra vita sarebbe cambiata. Il ragionamento filava all'apparenza. I treni veloci si spostano sui nuovi binari, la vostra linea si decongestiona, avrete più servizi e treni più rapidi. Invece è successo il contrario, sbotta Fittavolini. I nostri regionali scassati impiegano in media 10 minuti più di prima. Sembra incredibile. Invece è così. Sui nodi, quando al confine di Milano i treni superveloci lasciano i loro binari riservati e si immettono su quelli comuni, hanno la precedenza. E gli altri? Che aspettino? Dice la metafora. La Lombardia è una delle locomotive dell'economia europea. Però non tutti sanno che qui, in Lombardia, di vere locomotive se ne rompono in media 3 o 4 al giorno, dati Trenitalia. Dal 2 al 9 maggio, media di 2 guasti al giorno. La settimana prima, più di 4. Significa migliaia di persone bloccate in stazione o in mezzo ai campi della Bassa, come accade sul Milano-Pavia dell'8 giugno, quasi 1 ora per fare un tragitto di 23 minuti. Davanti a chi perde ore di lavoro non si può azzardare il ragionamento che le performance attuali di Trenitalia rispetto ai 1.264 treni al giorno sono in miglioramento. Nella settimana orribile del trasporto lombardo, la prima di gennaio 2008, andarono in tilt quasi 9 locomotive al giorno. È qui il male dei mali. 30 anni di mancati investimenti hanno lasciato in eredità un parco treni con età media di 27 anni, Trenitalia, e 32 anni, Ferrovie Nord. Dei 105 nuovi treni acquistati dalla Regione, con una spesa di 787 milioni, finora ne sono stati consegnati soltanto 39. E dall'anzianità dei mezzi discende una serie di conseguenze disastrose. Primo, la sporcizia. Tanto che tra le pendolari circola un comandamento: mai pantaloni bianchi. Altrimenti ti presenti in ufficio con l'ombra marroncina dei sedili sul sedere. Ancora, in estate l'incubo è il treno forno, spiega Giorgio Daò, rappresentante dei comitati lombardi. I problemi con i condizionatori sono all'ordine del giorno. Almeno ci permettessero di riaprire i finestrini che sono stati sigillati. Inconvenienti peggiori? Il Milano-Laveno del 18 maggio si ferma a Morosolo. Le porte però non si aprono. Il treno riparte con i passeggeri prigionieri. È stato un inverno di sciopero bianco dell'abbonamento e sciopero vero del biglietto da Novara a Magenta. Ora parte l'estate delle battaglie legali. Causa pilota, a fine 2008 il giudice di pace ha riconosciuto il danno esistenziale a un pendolare piacentino. Come quella, sempre da Piacenza, altre 6 azioni sono partite e 27 scatteranno a breve. Qualcuno sta andando oltre. A giorni depositeremo le nostre cause al Tribunale Civile, racconta Matteo Casoni, del comitato In Orario Mantova Cremona Milano. Saranno più di 30 azioni legali in accordo con Federconsumatori, fatte da viaggiatori di Cremona, Piadena, Pizzighettone. Infine, l'avvocato Angelo Musicco depositerà oggi gli atti di 3 cause al giudice di pace di Milano, Lodi, e al Foro del Consumatore. Il pendolare, spiega Musicco, è schiacciato da un potere che lo fa vivere male e se ne disinteressa. È la pseudo class action che sale in ordine sparso dalla pancia della Lombardia. Le ultime 3 cause arrivano da San Zenone a Lambro, stazione desolata per pendolari che si ribellano. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gianni Santucci, I pendolari e Milano lontana, si rompono 4 treni al giorno, dal Corriere della Sera del 16 giugno. Letture di Radio 24. L'Associazione Nazionale Magistrati sostiene che la nuova legge sulle intercettazioni potrebbe rallentare il lavoro della magistratura. Ma in un paese come il nostro, agli ultimi posti al mondo per efficienza della giustizia, i problemi della magistratura sono ben altri. Così muore la giustizia, si indigna l'Associazione Nazionale Magistrati, mettendosi di traverso alla nuova legge sulle intercettazioni. Per carità, tutti i provvedimenti sono criticabili, anzi criticabilissimi. Il problema è che la giustizia è già morta. O meglio, muore giorno per giorno nelle aule dei tribunali che punteggiano la penisola. Non è retorica, semmai è la vernice sporca dell'approssimazione, della mancanza di professionalità, di un'organizzazione del lavoro irrazionale, della cialtroneria, qualche volta della più imperdonabile strafottenza. Esagerazioni? Andiamo al 15 aprile 2009, 3 mesi fa, una delle tante date nere di questa giustizia malata. A Bari, città dalle forti infiltrazioni criminali, 21 mafiosi del clan degli Strisciuglio vengono scarcerati e non perché sono stati assolti, ma perché la motivazione della sentenza che li aveva condannati più di un anno prima, il 16 gennaio 2008, non è ancora arrivata. Il giudice, R.A.P., è stato lento, troppo lento. Ma non è questo il solo punto avvilente della vicenda. 3 mesi prima, come racconta Stefano Livadiotti nel suo libro Magistrati, l'ultracasta, era stato promosso a presidente di un tribunale per minori con la seguente motivazione: elevata laboriosità, grande attaccamento al lavoro, particolari doti organizzative. Figurarsi se non le avesse avute. È chiaro? Il sistema che non funziona è il sistema che permette alle singole rotelle di girare a vuoto, è il sistema che tollera, e in passato ancora di più, sacche di improduttività impressionanti. Nel 2006 R.A.P. era arrivata al top della carriera e il Consiglio Superiore della Magistratura, la cabina di regia del sistema giudiziario italiano, insieme a quel potentissimo sindacato che è l'ANM, aveva ratificato la sua promozione fra squilli di tromba che oggi paiono grotteschi. I pareri confermano il giudizio di elevata capacità professionale del magistrato, che, specie nei processi di maggiore complessità, come quelli in materia di criminalità organizzata, ha assicurato una rapida celebrazione dei giudizi e un elevato livello qualitativo del lavoro. La giustizia muore a Bari come a Milano, dove è intervenuto di forza il ministro Angelino Alfano per porre fine a uno sconcio che durava da troppi anni. Il giudice GMB, dal 25 marzo 2003 al 16 settembre 2008, ha depositato in ritardo la bellezza di 365 condanne. Come dire, la goccia quotidiana della sciatteria per un anno intero. Attenzione, quando si parla di ritardi si giunge anche ai 5 anni. Detto in altro modo, quando sono arrivati gli ispettori del guardasigilli, mancavano all'appello ancora 234 verdetti. Missing. Il presidente della sesta sezione civile, Alda Vanoni, definiva in una relazione indegna la situazione cui, in ogni modo, l'organo disciplinare non ha saputo porre alcun rimedio sanzionatorio. Risultato? Il CSM ha fissato con calma il suo bravo processo per il 16 ottobre, ma il ministro Alfano si è stufato di questa vergogna, ha strattonato la sezione disciplinare del CSM e la disciplinare ha sospeso, come si dice in questi casi, dalle funzioni e dallo stipendio GMB. Ci sono casi come questo, ma anche più stravaganti, che vengono puniti in modo blando, con una pena al brodino, e rovinano così la reputazione della categoria, con le centinaia di toghe che lavorano a testa bassa, parlano poco, non amano i titoli ad effetto. Invece, a scorrere i nostri tribunali, ci si imbatte in storie che nemmeno un artista avrebbe saputo immaginare. Prendiamo RI, in forze al Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Concedeva a un detenuto, lo scrive il CSM, non noi, permessi con cadenza mensile per il compleanno della figlia e ad un altro un permesso per l'imminente pericolo di vita del fratello, per la cui morte aveva già dato permesso. Come si vede, qui siamo all'insulto della logica, del buonsenso, del decoro minimo. E il CSM? Lo ha scudisciato con l'ammonimento, altra punizione camomilla. È così, con comportamenti scriteriati e pene che fanno il solletico, che muore la giustizia, che i tribunali si intasano e si ingolfano di pratiche, che i boss vengono scarcerati per decorrenza dei termini, che le cause si trascinano per 10, 20, 30 anni e si trasformano in incredibili staffette dove un giudice passa il fascicolo all'altro, che lo smista poi a un terzo e così via, senza un intervento uno per fermare quel vergognoso moto perpetuo. Fino al record dei record, raccontato proprio dal giornale. Un processo in Sicilia cominciato nel 1816 e finito solo qualche mese fa, ormai in vista del 200° compleanno. È la corporazione che difende se stessa, non colpisce i privilegi e le immunità, o comincia a farlo solo adesso, dopo decenni di lassismo. Fa politica dagli schermi dell'ANM, a sua volta divisa in correnti come e peggio del Parlamento, con la destra, il centro e la sinistra, in perenne lotta fra di loro, ma consociativi quando si tratta di sistemare le poltrone che contano. È la corporazione che nel disastro dei processi pendenti lascia ai giudici ben 51 giorni di ferie l'anno. Del resto erano 60 fino al 1979 e le paghe sono le più alte di tutta l'Europa continentale. Eppure nel periodo 1999-2006, come dimostrano gli studi di Daniela Cavallini, su 1010 procedimenti disciplinari ben 812 si sono chiusi con l'assoluzione e 126 con una condanna all'acqua di rose. L'ammonimento. Solo 2 magistrati sono stati rimossi e 4 destituiti. In pratica, chi ci rimette la poltrona è lo 0,065% delle toghe. Una percentuale da paese dei sogni. E infatti, la giustizia muore. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefano Zurlo, Giustizia che muore nelle aule dei tribunali, dal Giornale del 12 giugno. L'Iran sta vivendo in questi giorni uno dei momenti più drammatici della sua storia. Ma di fronte all'evidente prevaricazione di ogni forma di diritto umano, che fine hanno fatto le proteste della sinistra radicale? Perché questa volta nessuno scende in piazza? Milizie con tute e caschi neri che menano colpi di manganello correndo su motociclette nere. Le bastonate sono per i giovani di Teheran, per le ragazze con il chador, per i sostenitori di Mousavi. Una violenza non nascosta ma rivendicata anche con modi spettacolari. I basici di Ahmadinejad affermano così la regolarità nelle elezioni in Iran. Le proteste sono vietate, le TV oscurate, gli SMS bloccati, i siti non si aprono, le email non funzionano. Chi si ribella o è sospettato di farlo finisce in carcere. Eppure lì le piazze sono piene, ma in Italia nessuno protesta. I 3.714 chilometri di volo che separano Milano da Teheran sembrano molti di più. Giusto qualche studente iraniano davanti all'ambasciata di Roma, ben meno dei pochissimi 200 che hanno manifestato a Londra o dei forse 300 di Bruxelles. Ovviamente quasi nulla di nuovo. Bastava saper contare fino a 20 per misurare lo sdegno dell'Italia contro la legge che ha reintrodotto il diritto allo stupro in famiglia presso le comunità sciite dell'Afghanistan. Pochi per Aung San Suu Kyi, prigioniera del suo Myanmar. L'elenco potrebbe essere lungo. E quindi verrebbe da dire che vale per l'Iran ciò che si è visto altre volte. Una comunità, quella italiana, ormai disinteressata, un PD troppo preso dai suoi problemi e comunque incapace di mobilitare le masse. Una sinistra radicale che prima di scendere in piazza deve confrontarsi in un'assemblea dalla quale immancabilmente scaturiscono almeno due documenti presagi di scissione. Ma ci sono anche i movimenti, quelli che non seguono i tempi e le alchimie dei partiti, quelli che in un attimo riempiono le strade, fermano le università. Certo, il riflusso riguarda anche loro, ma in questo caso c'è qualcosa di più. Mahmoud Ahmadinejad, inutile negarlo, esercita su quest'area un fascino sottile e inconfessato. Quando nega l'Olocausto fa orrore, ma è pur sempre una sentinella contro l'imperialismo di Israele. Quando arricchisce l'uranio fa paura, ma tiene a bada gli Stati Uniti. Quando traffica armi fa bene, se sono per gli Hezbollah. Insomma, alla fine, qualche manganellata agli studenti ci sta pure, per il vecchio vizio di dare da mangiare al coccodrillo, nell'illusione che ci mangi per ultimi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Roberto Gressi, Quelle piazze vuote in Italia, il fascino sottile di Ahmadinejad, dal Corriere della Sera del 16 giugno. Nell'impiego pubblico non sempre il numero dei dirigenti è rapportato alle effettive necessità. E così può succedere che in un ufficio di polizia ci siano 10 capi per ogni vigile. Il vostro capo vi rovina le giornate? Consolatevi e pensate a che cosa possono passare gli agenti della Polizia Municipale di Trapani. Sono solo 7 in una città da 70.000 abitanti, ma ognuno di loro sulla propria testa di capi ne ha 10. Anzi, a guardar meglio, i superiori per ognuno degli agenti senza stellette sono 10 virgola qualcosa, perché a completare la piramide rovesciata della Polizia Municipale, oltre ai 70 ispettori capo, ci sono 9 commissari, un funzionario e ovviamente un comandante. Per trovare un numero analogo di stelle e stellette bisogna salire a Firenze, dove gli abitanti sono però 370.000, gli agenti semplici sono 600 e la vigilanza stretta, che coinvolge anche le decine di migliaia di turisti e city users di ogni giorno, regala tutti gli anni a Palazzo Vecchio primati negli introiti da multe, più di 48 milioni nel 2007. Il fatto è che i comuni non assumono. La nostra età media va verso i 55 anni e con l'anzianità aumentano i gradi, ribatte da Trapani il comandante Francesco Guarano. Deve essere anche per questo che nell'ultimo rapporto ACI Fondazione Caracciolo sulla polizia locale, Trapani conquista il primato di capoluogo meno presidiato d'Italia sul fronte degli illeciti stradali. A staccare multe, secondo le tabelle, sarebbe solo l'8,6% del personale, contro una media nazionale che viaggia intorno al 75%. Anche su questo punto Guarano non ci sta e rimarca che anche i commissari e gli ispettori capo sono impegnati in strada. L'esercito di generali trapanesi, che si completa con 3 ausiliari del traffico e 15 amministrativi, non è però l'unico in Sicilia. Basta spostarsi a Caltanissetta e si incontra la stessa gerarchia ipertrofica. 60.000 abitanti e 60 ispettori capo. Gli agenti, almeno, sono 18, per cui i capi per ognuno di loro non sono nemmeno 4, funzionari, comandanti e vice compresi. Queste piogge di stelle e stellette sono anche il frutto degli scatti automatici che, insieme agli anni di servizio, aumentano le mostrine sulla divisa. Ma ovviamente non sono un fenomeno naturale. Ad Asti, per esempio, che per dimensioni, 75.000 abitanti, è comparabile con le due città siciliane, ce la fanno con 11 ispettori capo e 58 agenti, spendendo circa 54 euro all'anno a cittadino, il 18% in meno rispetto ai trapanesi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gianni Trovati, a Trapani ogni vigile deve rispondere a 10 capi, dal Sole 24 Ore del 16 giugno.